Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qua alle 7:23 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di politica e di Toto Quirinale. Allora, in questo stallo totale della politica, ci occuperemo di quello che succede al Quirinale, eh? O meglio, il successore per il Quirinale. Allora, andiamo subito a sfogliare i giornali che aprono, come comprensibilmente capite, sul attentato che c'è stato a Boston. È martedì 16 aprile, i titoli, non si sa ancora la matrice di questo attentato, ma due bombe esplose all'arrivo della maratona di Boston. Allora, il Corriere della Sera, bombe alla maratona, terrore in America, Repubblica, terrore negli Stati Uniti, bombe sulla maratona. Il Fatto Quotidiano, Boston, bombe alla maratona, torna l'incubo terrorismo. Libero, bombe sulla maratona, strage a Boston, ma c'è anche l'apertura politica che è faida in famiglia per una poltrona, cioè sulla politica. E poi ancora il Messaggero, Boston, terrore alla maratona, Avvenire, terrore e sangue sulla maratona, La Stampa, Boston, bombe alla maratona. Il Secolo XIX, sangue sulla maratona di Boston, e il Quotidiano Nazionale, America nel terrore. Le aperture invece di diverso taglio, il Sole 24 Ore apre su Draghi che striglia le banche, tassi alti. Il Giornale invece sulla guerra civile a sinistra, la politica, miserabile PD, si usa questo aggettivo che Anna Finocchiaro, miserabile, ha utilizzato nei confronti di Matteo Renzi. Nel PD è scontro su Renzi, apre così anche l'Unità, mentre il Manifesto, preso per il colle, c'è la foto di Bersani. Come nella peggior tradizione democristiana, la partita del Quirinale scatena nel PD la guerra per correnti. E l'apertura della maratona di Boston è anche l'apertura della Gazzetta dello Sport, davvero questa tragedia, questa festa sportiva che si è trasformata in una tragedia e ora anche in un attentato terroristico, molto presumibilmente. L'FBI non sa ancora la matrice, ma è quasi certo che si sia trattato di un attentato di matrice terroristica. Boston, strage alla maratona, così apre la Gazzetta dello Sport. È interessante leggere già le prime analisi, come quella di Guido Olimpio sul Corriere della Sera, pagina 5. Un caedista o un nemico interno, le due piste degli investigatori. Scrive Guido Olimpio, i terroristi come i folli, se devono operare in un territorio sorvegliato come gli Stati Uniti usano le stesse tecniche, ordigni fatti in casa con prodotti di origine militare o più facilmente con ingredienti che acquistano dal ferramenta, poi lavorano con tubi, contenitori sigillati, timer, lampadine, tinture per i capelli. E questo l'allarme sulle cosiddette bombe artigianali sul territorio statunitense, come vengono utilizzate in scenari medio orientali. Certo, c'è anche il nemico interno, militanti di estrema destra. Per esempio Eric Rudolph ha seminato già morte ai giochi di Atlanta nel luglio 96 usando dei cilindri bomba, e dunque la pista interna, scrive Guido Olimpio, è anche una pista seguita. Il movente per questi gruppi o individui non manca mai, ai loro occhi lo Stato è tiranno, mette le tasse, cerca di portar via le armi agli americani veri. Qualcuno ha sottolineato anche che l'ultimo miglio della maratona era dedicata alle vittime della scuola di Newton. C'è un legame? Presto per dirlo. Chi vuole seminare terrore a volte crede molto nei simboli e nelle date, ma in altre si accontenta di prendere di mira la folla solo perché è un target morbido, vale a dire facile. Insomma, c'è mistero su questo attentato, d'altronde è successo da poche ore. L'FBI sta interrogando anche delle persone, scrive Vittorio Zucconi. In prima pagina di Repubblica, lo spettro dell'11 settembre, l'America torna ostaggio della paura del terrorismo. Scrive Zucconi, le bombe sono arrivate dal nulla, hanno fatto riesplodere il senso di vulnerabilità di una nazione che sperava di averlo sepolto. Nessuno nell'immenso macchinario della sicurezza nazionale americana aveva avuto segnali o sospetti, eppure l'attacco è stato un'offensiva massiccia, coordinato, preciso, teleguidato, ideologicamente mirato, ha colpito i simboli più alti dell'America che il mondo ama e odia: Boston, la culla dell'indipendenza, il giorno della festa solenne del patriota ribelle, la biblioteca mausoleo di JFK, profanata la maratona che aveva raccolto entusiasti da 56 nazioni, e anche in diretta TV per ottenere il massimo effetto. Chiunque abbia progettato questo attentato e fatto saltare quegli ordini in sequenza sapeva che ci sarebbero state telecamere per l'arrivo della maratona di Boston, e dunque la paura, non i molti morti, i 100 feriti, le vittime, i danni, era il bersaglio, e il bersaglio è stato centrato. Ovviamente ci sono testimonianze, per esempio il secolo XIX intervista un sindaco maratoneta, Fulvio Briano, sindaco, avvocato, appassionato maratoneta, che era alla manifestazione di Boston, alla maratona di Boston, è il sindaco di Cairo. Dice: sono vivo per miracolo, sembrava un film, eravamo lì pochi minuti prima, che paura, ero lì con Leo, dove ci sono state proprio le esplosioni. Così dice Antonella Ferrero: e il figlio, due miracolati, e lei da Boston parla valanga, come può fare chi è scampata a un pericolo del genere, racconta in prima pagina del secolo Paolo Giampieri. L'emozione gli viene giù con le parole. Fulvio era già arrivato, aspettavamo Stefano, non arrivava, così abbiamo preso il taxi. Fulvio è il marito, Briano, sindaco di Cairo Montenotte, appassionato maratoneta. Beh, davvero una tragedia che ha fatto ripiombare l'America nel terrore. Ripeto, le ultime notizie dicono che non si sa bene quale sia la matrice, è un attentato terroristico, l'FBI sta indagando. Ovviamente su questo il giornale radio vi terrà informato durante tutta la giornata. Noi, che dire, ci fermiamo per la pubblicità del meteo e poi ci tuffiamo dalla, qualcuno prima diceva Alessandro Giglioli alle 6:30, dalla tragedia alla farsa, la tragedia vera, concreta, quella dell'attentato terroristico, alla farsa della politica italiana. Insomma, un'altra giornata e altre giornate di chiacchiere, ma nulla si muove. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua alle 7:35 minuti. Allora, dopo la tragedia di Boston, la farsa italiana, no, mi permetto di fare questo accostamento, nel senso che cari ascoltatori, io leggo i giornali tutti i giorni e anche oggi li leggo, ovviamente li leggo per voi, li leggo con voi, ma la domanda migliore la pone Ugo Magri oggi sulla Stampa a pagina 6, quando nel mezzo dell'articolo in cui si racconta questo stallo, questo gelo, questi accordi che non portano a nulla, queste giornate di chiacchiere eccetera, si chiede: a cosa si sono dedicati ieri i nostri eroi, e cioè i politici? Tutta l'attenzione calamitata dallo scontro tra Renzi e il resto del PD. Ecco, un altro giorno, scrive Ugo Magri, è trascorso senza costrutto, e quando mancano 48 ore all'elezione del nuovo presidente nessun accordo risulta raggiunto, anzi nemmeno si registrano particolari sforzi per trovare un nome condiviso nello spirito della Costituzione. L'articolo 87 recita che il capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale. Tanto PD che PDL confermano: zero contatti dietro le quinte, i negoziatori sono rimasti a girarsi i pollici. Insomma, incomunicabilità totale. Prova ne sia che Bersani esclude per oggi nuovi colloqui con Berlusconi, il quale a sua volta si dichiara in attesa che dal PD gli presentino finalmente dei nomi, una rosa, e non uno o due soltanto, tra cui scegliere quello a lui più gradito. In sostanza, siamo al punto di prima. Una politica immobile. PD, PDL, gelo totale sul Quirinale. Questo è il titolo dell'articolo di Ugo Magri che trovate sulla Stampa a pagina 6. Ecco, piomba quella domanda: di che cosa si sono occupati ieri i nostri eroi? Beh, il tema politico del giorno in questo stallo totale sul Quirinale è proprio questo scontro all'interno del Partito Democratico. Ormai sono veramente agli insulti anche. Ieri Anna Finocchiaro ha detto da Renzi attacchi miserabili. Renzi ha detto non risponde agli insulti. Qualcuno fa sapere gli vogliono far saltare i nervi. È scontro aperto nel PD, titolo al Sole 24 Ore, a pagina 13. Anna Finocchiaro dice proprio di Matteo Renzi: le sue parole sono gravi, offensive, Trovo che l'attacco di cui mi ha gratificato Renzi sia davvero miserabile per i toni e per i contenuti. Aveva fatto cenno alla spesa fatta con la scorta all'IKEA, no? Da parte di Anna Finocchiaro. E che replica appunto da Renzi, attacco miserabile. Il sindaco, d'altra parte, si dice amareggiato e così, insomma, questo scontro Finocchiaro-Marini, scontro con Renzi, anche questa è la notizia principale del Corriere della Sera di Politica, a pagina 9, Monica Guerzoni, terremoto nel PD, l'unità giornale più vicino al Partito Democratico, titola infatti così in prima pagina, non dimentichiamolo, nel PD è scontro con Renzi, e anche il Corriere pone l'accento su questo aggettivo usato da Anna Finocchiaro nei confronti del sindaco di Firenze, miserabile. E tra l'altro in un retroscena firma Maria Teresa Meli, che trovate a pagina 9 del Corriere della Sera, il terremoto nel PD porta a già la conta dei franchi tiratori, e cioè quanti magari nel segreto delle urne della votazione del Quirinale non voteranno il nome che potrebbe essere scelto poi dal Partito Democratico come il nome che potrebbe essere di unità nazionale. Tra l'altro c'è una battuta raccolta da Maria Teresa Meli su Giuliano Amato, che è il nome che più emerge nelle ultime 24 ore. Ecco, se qualcosa si è mosso almeno dalla lettura dei giornali è che Giuliano Amato sembra un pochino in vantaggio rispetto per esempio a Romano Prodi delle ultime ore. Racconta Maria Teresa Meli, seduto su un divanetto, Beppe Fioroni del PD fa questa battuta: Amato, da gran paraculo, può fare anche il paracattolico. Sapete che da ieri c'è il tema lanciato proprio tra l'altro da Matteo Renzi sulla questione: il presidente deve essere un presidente cattolico, con Renzi che dice ma chi se ne frega, può essere anche ateo, agnostico, ebreo, musulmano, buddista, basta che sia un presidente rispettato. Per Francesco Verderami, ormai ci si esercita così nel retroscena, nel cercare di capire cosa succede, chi vincerà, chi non ci vincerà, saranno decisivi il secondo, il terzo voto, quindi giovedì o venerdì. L'intesa possibile è proprio su Amato, e perché dico il nome di Giuliano Amato, anche sulla stampa, nel retroscena di Amedeo la mattina, il cavaliere, cioè Berlusconi, aspetta la lista da Bersani, sperando di trovare il nome di Amato in cima. Insomma, Giuliano Amato viene visto in questo momento dal centrodestra come una sorta di meno peggio rispetto agli altri. A proposito di Giuliano Amato, ieri, racconta il Messaggero, Giuliano Amato in qualità di presidente della Treccani è andato a un convegno a Napoli. Trovate un interessante articolo di Pietro Treccagnoli a pagina 2 del Messaggero. Il titolo è questo: non descrivetemi come accumulatore di prebende. Sapete che soprattutto su Twitter, no? Nella rete, nei blog, Giuliano Amato viene visto come colui che guadagna 31.000 euro al mese accumulando vitalizi, pensioni, eccetera. Ebbene, Giuliano Amato ieri anche in questo convegno, in cui si parlava anche della rete, dell'importanza di informazioni in rete, ha detto proprio questo: io non cumulo la pensione con il vitalizio, il mio vitalizio lo verso interamente in attività di beneficenza ed è ingiusto descrivermi come un perfido cumulatore di prebende pubbliche. Più volte ho provato a spiegare la mia posizione in vari blog in cui se ne parlava, ma mi è stato negato l'accesso e il relativo diritto alla rettifica. Di qui Amato dice, insomma, nel mare magnum del mondo 2.0 tutto si smarrisce, soprattutto il senso, e dunque ha fatto riferimento a Grillo, alle Quirinarie, non parlandole direttamente ma a suo modo sottilmente, togliendosi senza darla vedere qualche sassolino dalla scarpa in giorni come questi. La rete, ha detto Amato, non è sempre aperta come si crede, spesso tende a creare delle enclave chiuse senza scambi di opinione, è la negazione della democrazia, blog autoreferenziali, forum dedicati alla denigrazione, si trova di tutto. Tutto, se si ha tempo da perdere e una reputazione da difendere. Insomma, Amato che si scaglia anche contro la presunta democraticità della rete e poi dice: io non sono un cumulatore di prebende, ma nessuno mi fa spiegare questa cosa. E intanto, ecco, forse un'altra notizia che troverete importante è che Renzi e Berlusconi si sono visti ieri a Parma. si sono visti al Teatro Regio, 20 minuti per qualcuno, un'ora per qualcun altro, colloquio riservatissimo. Quello che emerge semplicemente è che Berlusconi ha accolto Renzi con codesta battuta: ma quanto sei alto? 1,81, ha risposto Matteo Renzi. Ecco, questo si sa di ufficiale del colloquio tra Berlusconi e Renzi. Tra l'altro, scrive La Stampa, non sapendo che con la risposta 1,81 probabilmente non ha messo in buon umore Silvio Berlusconi, che a 1,80 invece non arriva per nulla. Comunque, faccia a faccia per un'ora, di che si sono parlati? Anche Matteo Renzi, alla fine, alle domande pressanti dei cronisti dicendo: ma di che vi siete parlati? Ha risposto: no, non abbiamo parlato di Quirinale, non abbiamo parlato di politica, di questi tipi di accordi. È più facile che Berlusconi si trovi d'accordo con Bersani che con me. Eccola lì, l'altra frecciatina. Insomma, ormai se non passa giorno, se non passa ora, senza che ci siano delle frecciatine o frecciatone, tanto che il Fatto Quotidiano titola così a pagina 3: Matteo nega accordi con Berlusconi, forse gli accordi li fa con Bersani. Ma tu quanto sei alto? Ecco, questa è l'unica domanda che trapela ufficialmente pronunciata nel discorso. Ma tu quanto sei alto? Capite? E i giornali si aggrappano a questa imprescindibile, fondamentale, cruciale, nodale domanda dell'incontro tra Berlusconi e Matteo Renzi. In tutto questo oggi c'è il nome delle Quirinarie, che sono diventate da 10 a 9 perché si è ritirato Beppe Grillo da parte del Movimento 5 Stelle. A proposito del Movimento 5 Stelle, tutti fanno notare l'ennesime gaffa. Allora c'è la foto che circola di Vito Crimi, capogruppo al Senato, che dorme bellamente in prima classe sul Roma-Milano, sull'alta velocità. E allora l'accusa: ma come, voi siete contro l'alta velocità? Ma si difende Vito Crimi, quel giorno c'era sciopero, dunque l'unico treno era quello, e poi per Roma l'unico treno ormai è l'alta velocità, e poi l'alta velocità in Val di Susa è una cosa rispetto all'alta velocità a Milano-Roma. Poi c'è l'altra gaffe di Roberta Lombardi, che è interrogata a una domanda di Radio Radicale, di una giornalista di Radio Radicale, e dice: ma scusi, il presidente del Quirinale deve avere almeno un'età anagrafica, 50 anni, risponde: oddio, una certa età anagrafica non mi pare sia scritto in Costituzione. E invece c'è scritto in Costituzione, ma subito, quando glielo fa notare la giornalista, lei rimedia, Roberta Lombardi rimedia virando la questione, cioè nel senso: non è che c'è scritto che abbia dagli 80 anni o dai 70 anni in su, che è la media dei candidati. Una mezza gaffa, pare di aver capito, se ascoltate l'audio, che insomma non pensava fosse scritto in Costituzione, dei 50 anni. E poi, ma poi io dico: ma chi la conosce la Costituzione in Italia? Cioè, perché vorrei entrare adesso nella metropolitana di Milano a chiedere la Costituzione. Si dice: ma quelli sono parlamentari, ma a volte non sanno parlare manco l'italiano. Quindi voglio dire, cioè, Antonio Razzi conosce la Costituzione secondo voi? Cominciamo dai congiuntivi e poi magari passiamo alla Costituzione. In ogni caso, a proposito della Camera, sapete che cos'è l'allegato A? L'allegato A della Camera? Io non lo sapevo, l'ho imparato oggi leggendo l'articolo del Fatto Quotidiano. L'allegato A. Questo è proprio da mani sul volante, dopo il traffico. Allora, avete le mani ben strette sul volante, avete appoggiato le tazzine del caffè bollente o del tè sul tavolo, avete i bomboloni alla crema, che mi dicono che esplodono, poi uno si schiaccia troppo, appoggiati anche lì, prima di prendere dal bancone del bar, e se siete in treno, come al solito, posizione d'atterraggio d'emergenza in aereo. Che cos'è l'allegato A? Pagina 9 del Fatto Quotidiano. Camera e Senato, 159 inutili assunzioni obbligatorie. Marco Palombi: per capire questa piccola storia di vita parlamentare bisogna tornare alla Prima Repubblica, 1993. Nacque una bella delibera. Noi siamo il paese delle delibere e delle deroghe, ricordatelo, cari italiani. Ebbene, nacque quello che oggi si chiama in gergo allegato A. Una lista di ex dipendenti dei gruppi parlamentari di DC, PSI e via dicendo, attualmente sono 159 tra Camera e Senato, ex dipendenti dei gruppi parlamentari, che ha lo stipendio garantito dal Parlamento pur non essendo assunta a tempo indeterminato e non avendo fatto alcun concorso, perché tra i gruppi parlamentari e il loro personale c'è un rapporto di tipo privatistico. Per gli allegato A È come se il tempo non fosse mai passato. Grazie a quel testo del lontano 93, poi prorogato in tutte le legislature, compresa questa, la Prima Repubblica è ancora viva, lotta insieme a noi sotto forma di contratti che obbligatoriamente devono essere onorati con stipendio garantito. Per far almeno lavorare i fortunati, i gruppi parlamentari hanno l'obbligo di assumere questi dipendenti, non dipendenti, secondo una distribuzione percentuale, pena una decurtazione dei fondi che gli vengono attribuiti. E quindi i gruppi hanno a loro contratto più personale di quello necessario, perché sono obbligate ad assumere queste persone. Pietro Ichino racconta il fatto: dalla scorsa legislatura ha fatto una battaglia solitaria su questa vicenda, dicendo che il PDL, per esempio, in base al numero dei propri senatori dovrebbe disporre di 21 dipendenti e ne ha invece 30, il PD dovrebbe disporre di 18 dipendenti e ne ha invece 24. Insomma, questa è la lista allegato a Pietro Ichino ha detto: ho provato a bloccare questa cosa, ma un collega del Movimento 5 Stelle mi ha detto: non si può lasciare la gente in mezzo alla strada. Già, giusto, questo è un principio giusto, non si può lasciare la gente in mezzo alla strada. E quindi un carrozzone che tiene 10 persone dovrebbe tenere 10 dipendenti, ma facciamo stipendi per 15, 16, 17, 18 dipendenti, chi se ne frega, perché il principio è che non si può lasciare la gente in mezzo alla strada. Debito pubblico 2.000 miliardi di euro. Passiamo alla questione economica. Ieri il ministro del welfare Fornero ha detto, come scrive il Sole 24 Ore a pagina 5, la cassa in deroga, la caccia alle risorse. L'obiettivo è quello di riuscire ad arrivare ad avere un altro miliardo di euro. Potrei così sentirmi soddisfatta, ha detto Elsa Fornero, anche se c'è il rischio che possa non ancora essere sufficiente. Lavorerò fino a quando sarò al Ministero con la massima dedizione a trovare almeno un po' di risorse che possano essere utilizzate per chi ha bisogno. Questo è il tema dei fondi della cassa in deroga. Voglio però concludere con una notizia che trovate sulla Stampa, una notizia che secondo me è la fotografia anche di un paese attraverso questa storia di cronaca. Ricordate l'uccisione del tassista Luca Massari, ucciso perché aggredito col suo tassì, aveva a Milano investito un cane uccidendolo e quindi è stato aggredito brutalmente e ucciso dalla periferia di Milano. Ora il dramma è anche di chi ha avuto il coraggio di testimoniare contro gli autori di quel delitto. Paolo Colonnello racconta sulla Stampa, pagina 19, la storia dell'odissea dell'elettricista milanese che nel 2010 ruppe il muro dell'omertà. Sfidai gli assassini del tassista, ma oggi non testimonierei più. Racconta Colonnello, come diceva Don Abbondio, uno il coraggio non è che se lo può dare. Se tornassi indietro non so se rifarei quello che ho fatto. Dopo quella testimonianza vivo con gli antidepressivi, faccio fatica a dormire, ho perso il lavoro e ora anche la casa. Gianluigi Ricotti è l'unico che a 34 anni, padre di una bambina di 2, prese il coraggio a due mani perché vide, mentre stava fumando una sigaretta sul balcone, quell'aggressione e decise dunque di testimoniare. Nonostante dal primo giorno gli aggressori gli bruciarono la macchina di notte perché avevano visto che lui era stato testimone, poi andarono sotto casa sua, chiesero al padre di poterlo incontrare, lui visse nella paura, poi perse il lavoro perché faceva l'elettricista ed essere chiamata a fare riparazioni quando in zona ti vedono come un appestato non è facile. Allora ha preso moglie e figlia, ha deciso di trasferirsi, andare in campagna, a 500 euro al mese ha trovato un piccolo appartamento dignitoso, ma venerdì scorso, dopo aver perso il lavoro, si è presentato all'udienza per lo sfratto e il giudice non ha potuto far altro che confiscargli anche la casa. E insomma, ora si trova, dice, abbandonato da tutto e da tutti, vittima di quella scelta coraggiosa di testimoniare di aver visto quello che aveva visto. Sfidai gli assassini del tassista, oggi non testimonierei più. Lo trovate sulla Stampa, pagina 19. Eh sì, è anche questa una fotografia di questo paese, il giornale radio.